Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel suo libro Il Grande Crollo, il celebre economista John Kay Galbraith, ripercorrendo le ragioni che avevano portato alla crisi economica del 1929, si domandava se avrebbe mai potuta ripetersi una simile catastrofe. Ora che in molti si stanno ponendo di nuovo questa domanda, è interessante rileggere quello che il grande economista scriveva più di 40 anni fa. Nell'estate del 1929 il mercato dominava non solo la cronaca, ma anche la cultura. Quella minoranza raffinata che in altri tempi aveva manifestato il suo interesse per San Tommaso d'Aquino, Proust, la psicoanalisi e la medicina psicosomatica, in quei giorni parlava di United Corporation, di United Founders e di Steel. Soltanto gli eccentrici più aggressivi mantenevano il distacco dal mercato e l'interesse per l'autosuggestione o per il comunismo. Ogni Main Street aveva sempre avuto un cittadino in grado di parlare con cognizione di causa di compravendita di titoli. Ora egli diventò un oracolo. A New York, nei pressi di qualsiasi gruppo di persone interessanti, si trovava sempre un dotto agente di cambio o un consulente finanziario informato dei progetti correnti di cartelli, sindacati e fusioni e delle occasioni attraenti. Egli consigliava utilmente i suoi amici sulle possibilità di investimento e, pressato, diceva tutto quel che sapeva sul mercato e molto altro che non sapeva. Ora, improvvisamente, questi uomini brillavano incontrastati persino in compagnia di artisti, di commediografi, di poeti e di famose concubine. Le loro parole, più o meno letteralmente, erano d'oro. Il loro uditorio li ascoltava non con la casuale attenzione di gente che raccoglie battute ripetibili, ma con l'attenzione estatica di chi spera di far denaro mercé i consigli uditi. Il fatto che gran parte di ciò che si ripeteva a proposito del mercato, allora come oggi, non avesse alcuna relazione con la realtà, è importante, ma non straordinario. Fra gli esseri umani c'è un genere di rapporti che ha origine non dalla conoscenza o dalla mancata conoscenza, ma dall'incapacità di apprendere ciò che di fatto si ignora. Questo era il caso di gran parte dei discorsi sul mercato. A un pranzo nel centro di Scranton, il medico ben informato parlava dell'imminente frazionamento delle azioni della Western Utility Investors e del suo effetto sui prezzi. Né il medico né i suoi ascoltatori sapevano perché ci doveva essere un frazionamento, perché esso avrebbe aumentato i valori o perché mai la Western Utility Investors avesse un valore. Ma né il medico né i suoi ascoltatori si rendevano conto di non averne la minima idea. La giustezza di una cosa di per sé è spesso un'attrazione associata non con i fatti o con la realtà, ma con l'uomo che l'asserisce e con la maniera in cui la asserisce. Forse l'incapacità di vedere chiaramente la misura della propria ingenuità era una caratteristica particolare degli investitori in gonnella, che oramai stavano entrando nel mercato in numero sempre crescente. Un articolo della North American Review del mese di aprile riferiva che le donne americane erano diventate le protagoniste del più eccitante gioco capitalistico finora riservato ai maschi e che la casalinga moderna ora legge, per esempio, che le right hero stanno salendo, come legge che al mercato è arrivato pesce fresco. L'autore azzardava l'ipotesi che il successo nella speculazione avrebbe giovato molto al prestigio femminile. Per la tipica giocatrice d'azzardo, la Steel non era collegata a una società industriale, e meno ancora a miniere, a navi, a ferrovie, ad altiforni e a forni Martin Siemens. Piuttosto essa aveva a che fare con dei simboli su un nastro, con delle righe su una tabella e con un prezzo che saliva. La speculatrice parlava della Steel con la familiarità con cui si parla di un vecchio amico, benché in realtà non ne sapesse assolutamente nulla. Nessuno le avrebbe detto che non sapeva di non sapere. Siamo gente cortese e prudente, ed evitiamo le sgarberie. Per di più, un avvertimento del genere, lungi dal dare un risultato, avrebbe solo ispirato un sentimento di disprezzo per chi non aveva il coraggio, lo spirito di iniziativa, la sofisticazione, per capire come ci si poteva arricchire facilmente. L'operatrice di borsa aveva scoperto che poteva diventare ricca. Certo, aveva lo stesso diritto degli altri alla ricchezza. Una delle abitudini femminili è quella di dissimulare in maniera meno elaborata degli uomini i propri moventi, che peraltro sono sempre uguali. I valori di una società esclusivamente preoccupata di far denaro non sono del tutto rassicuranti. Durante l'estate, il New York Times accettò l'annuncio di un trafficante di titoli della National Waterworks Corporation, una società creata per assorbire le aziende comunali degli acquedotti. L'annuncio conteneva la seguente allettante trovata. Immaginate questa scena oggi, che per un cataclisma soltanto un piccolo pozzo rimanga a disposizione dell'intera grande città di New York. Un dollaro, $100, $1,000, $100,000 varrebbe ogni secchio d'acqua. Possedere il pozzo vorrebbe dire possedere tutta la ricchezza della città. Gli investitori con un debole per i cataclismi erano sollecitati ad assicurarsi una forte posizione nell'acqua prima che fosse troppo tardi. Avete ascoltato la lettura di un capitolo del libro Il Grande Crollo, scritto da John K. Galbraith nel 1962, oggi pubblicato in Italia da Rizzoli, 188 pagine, €8,60. Nel suo libro Le memorie di Jack lo Squartatore, l'attore e scrittore inglese Clenash Ferjon presenta sotto forma di romanzo autobiografico la storia di Littleton Stewart Forbes Winslow, uno dei molti indiziati per gli 8 atroci delitti che insanguinarono le strade di Londra nell'autunno del 1988. Il dottor Winslow è un affermato psichiatra che lavora presso il manicomio di Hammersmith. Alcuni dei suoi pazienti presentano tracce di quella che diventerà in seguito anche la sua ossessione, l'impulso di uccidere. Ricordo che una volta ero seduto nel mio studio quando, senza bussare, uno strano tipo entrò e si accomodò di fronte a me. Notai nei suoi modi un'agitazione solo vagamente mascherata e gli chiesi quali fossero i suoi sintomi. Avvicinando la sedia e guardandomi a un tratto con ferocia, disse: «Il fatto è, dottore, che ho un grande desiderio di uccidere chiunque incontri». Poi si tolse il cappello e vide che aveva una sorta di banda metallica intorno alla fronte. La indicò e proseguì. «È solo questa a impedirmi di portare a compimento quello che vorrei fare». Gli chiesi di farmi un resoconto più dettagliato di quello che intendeva dire. Lui replicò: «Mentre passeggio per strada, mi dico, passando accanto a qualcuno, mi piacerebbe ucciderti. Non so perché, ma provo questa sensazione». Ora, dal momento in cui un paziente entrava nel mio studio, il primo pensiero che mi veniva alla mente era: quest'uomo o questa donna sta forse pensando di farmi del male? Ero sempre sul chi vive per un'emergenza di questo genere. Ma quell'uomo cominciava a interessarmi molto e, continuando a tenerlo d'occhio, dissi: non avete risposto alla mia domanda. Non riesco ancora a capire quello a cui state realmente alludendo. Senza preavviso balzò in piedi e cercò di afferrare dalla tasca quella che pensai fosse un'arma. Mi alzai anch'io di slancio e gli afferrai il polso mentre con l'altra mano suonavo il campanello. Era il segnale per chiamare il mio domestico, Freddy, che in casa non si allontanava mai molto perché mi raggiungesse immediatamente nella stanza. Il brav'uomo si precipitò dentro all'istante, quasi contemporaneamente alla mia chiamata. Gli ordinai in tono calmo, trattenendo ancora il paziente: accompagna fuori questo signore. Alla vista di Freddy, il pazzo tornò un po' in sé e si lasciò condurre per il braccio verso la porta d'ingresso. Si girò mentre se ne andava e mi disse, tentando scioccamente un significativo cipiglio: «Buongiorno, dottore, ci incontreremo di nuovo». E io ribattei con bonomia: «Buona giornata», benché non invidiassi la prima persona che avrebbe incontrato fuori. Letture di Radio 24. La scuola italiana non regge il confronto con quelle degli altri paesi europei, ma ogni parvenza di riforma viene bocciata sul nascere, scrive Pierluigi Battista dalle pagine del Corriere. Ma se una frazione cospicua della classe dirigente, pur predicando l'intangibilità della scuola pubblica così com'è, spedisce i propri figli nelle scuole private, è solo un deplorevole pettegolezzo sottolinearne la plateale incoerenza. Non le viene in mente che se la libera scelta di scuole diverse da quella pubblica è resa possibile solo e soltanto dalle favorevoli possibilità economiche, È legittimo e plausibile definire quella scelta come il frutto di un privilegio, il trionfo di un doppio binario mentale, un divario troppo marcato tra i principi che si proclamano e il modo concreto di prefigurare il futuro dei propri figli. E non si percepisce in questo divario il senso di una resa, di una rassegnata accettazione dell'ineluttabile decadimento della scuola pubblica, del destino grigio e desolante che attende chi non frequenta le scuole dove le lingue straniere sono coltivate e la conoscenza non assume quell'aspetto spappolato e informe tipico di molti istituti scolastici degradati e abbandonati. E non si interrogano sul perché, se i figli delle poche famiglie italiane che hanno nel loro futuro un apprendistato all'estero e un titolo di studio meritatamente guadagnato nelle università più prestigiose del mondo, non accade mai il contrario. Non succede mai o quasi mai che il figlio di qualche facoltosa famiglia europea o americana si rivolga alle scuole italiane per riceverne istruzione, sapere, formazione. E non è ingiusta questa sottile, non detta, mai confessata deriva classista, mentre si finge di non vedere che una scuola pubblica, dove il merito non conta niente, è una scuola che conserva sì la sua titolarità pubblica, ma ha smarrito il significato della sua natura democratica. Dove gli insegnanti che valgono, e ce ne sono, tanti ma ridotti al silenzio dell'impotenza, sono mortificati dalla mediocrità, dalla notte burocratica che svuota l'anima, uccide ogni passione, spegne ogni scintilla di autentico amore per la cultura, lascia risucchiare nella logora e malpagata routine quotidiana ogni ambizione e qualsiasi progetto di vita. Rinserrati nelle loro aure e nicchie d'eccellenza, i genitori che bocciano con furore ogni parvenza di riforma della scuola pubblica, ma proteggono i loro figli dalla sorte di frustrazione e di insignificanza cui sono condannati tutti gli altri, pensano davvero che prima o poi nessuno chiederà il conto di un così cinico doppio standard. Non capiscono che prima o poi dovranno fronteggiare chi si ribellerà all'insensatezza di una scuola che soffre in modo umiliante ogni comparazione con le nazioni a noi più simili. Che si sta recitando in questi giorni nelle piazze italiane una fiera grottesca dell'ipocrisia, senza che ci si domandi perché l'università italiana è ridotta in condizioni miserevoli. Perché è così diffusa la fatalistica convinzione che tanto non c'è più niente da fare per la scuola italiana, tanto la partita è perduta. Che se gli studenti applicassero davvero la massima secondo cui ribellarsi è giusto, il bersaglio della loro rabbia dovrebbe essere un po' più chiaro e più circoscritto. E se loro se ne vanno nelle isole beate dell'eccellenza, che titolo hanno più per parlare, per difendere l'indifendibile, senza nemmeno un po' di convinzione? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Scuola, il cinismo del doppio standard, dal Corriere della Sera del 27 ottobre. A Torino, a Porta Palazzo, ha sede il più grande mercato all'aperto d'Europa. Un piccolo universo multietnico che non dorme mai. Di giorno le bancarelle, di notte gli spacciatori. Porta Palazzo la si può descrivere in molti modi. Il cuore pulsante e vitale di Torino, la sede del mercato all'aperto più grande d'Europa, la zona più multietnica e folcloristica della città. Passare una giornata a Porta Palazzo è un po' come immergersi in un racconto di Jack London sulla vita dei boschi. Un ecosistema a sé stante dove c'è sempre qualcuno, a qualsiasi ora del giorno e della notte, che lotta per garantirsi una sopravvivenza più o meno stentata, con tutti i mezzi che la natura e le circostanze gli hanno messo a disposizione. Astuzia, tenacia, forza fisica, destrezza e quant'altro. Il sorgere del sole su Porta Palazzo è salutato dal rantolio ingolfato dei primi camion che portano le derrate alimentari. I montatori magrebini stanno ancora finendo di allestire i banchi e gradualmente arrivano i venditori a sostituirli. Cinesi, indiani, arabi, africani, italiani, slavi e altri che non sapresti posizionare geograficamente cominciano a disporre le mercanzie sulle tavole arrugginite ricoperte di tela cerata. Poche chiacchiere tra uno sbadiglio e l'altro, i muscoli che devono ancora uscire dal torpore del sonno. I venditori fanno comunella in tre gruppi, distinti per ondata migratoria. I pochi piemontesi preparano i banchi con l'aria stanca del capobranco ormai spodestato. Sono per lo più anziani e la magra pattuglia dei quarantenni non sembra destinata ad avere un ricambio. In linea di massima si tengono alla larga dagli extracomunitari, gli ultimi arrivati, che salvo i casi di quelli con la classica faccia cupa da inestinguibile saudagi, sfoggiano sorrisi invidiabili da talora. E sorprende sentire qualcuno raccontare, sempre col sorriso sulle labbra, che di formazione sarebbe architetto laureato a Casablanca. Ma che ci vuoi fare? Bisogna pur sopravvivere. L'ultimo gruppo è formato dai meridionali immigrati durante il boom economico degli anni 60, dall'umore sbalzante tra la vivacità e il lamento. Scherzano a turno con vecchi e nuovi arrivati, conoscendo bene i ruoli di entrambe le parti, coloro che devono difendere il territorio e coloro che lo devono conquistare. Attorno alle 5 dai bar della piazza fanno capolino i camerieri a rifornire le truppe di caffeina. Si alzano le serrande dei mercati coperti della carne e del pesce, poi via via arrivano gli altri. Fiorai, panettieri, mercanti di abiti e utensili per la casa, riparatori di orologi, eccetera, impossibile elencarli tutti. Vale la pena citare i contadini del mercato dell'orologio, quasi tutti coltivatori diretti sopra la sessantina, imbacuccati nelle classiche camicie di fustagno a quadri e facilmente riconoscibili dalla merce che non emana radiazioni fosforescenti. La vendita comincia attorno alle 6, con i pensionati più mattinieri che vengono ad accaparrarsi la merce migliore. Esaminano, valutano e comprano senza nessun assillo da parte dei venditori. La voce della foresta comincia a farsi sentire soltanto verso le 8 o le 9, quando le file tra i banchi cominciano a stiparsi di passanti, che i venditori cercano di attirare con ogni sorta di richiamo ed esibizione. La stagione degli amori. Ciò che vendi tu è qualcosa che non vendo io, è questa la legge della giungla. Nel frattempo, tra la folla si sono mescolati anche borseggiatori e spacciatori, che si aggirano furtivi per scansare gli sguardi dei loro predatori, vigili, poliziotti e militari di recente introduzione, peraltro frequentemente distratti. Verso la fine del mercato appaiono anche i pensionati che raccattano la verdura a terra o setacciano i mucchi di frutta marcia alla ricerca di qualcosa di commestibile. Sentimenti peggiori della paura fanno anche di loro presenze che si muovono nell'ombra. Alle 2 scatta il cessate il fuoco. I vigili cominciano a perlustrare la piazza armati di minacciosi blocchetti. Nel giro di mezz'ora i venditori ammainano i tendoni delle bancarelle, stivano le merci sui camion e ripartono. Del mercato che era, resta soltanto una marea di rifiuti su cui si avventano i piccioni e le intelaiature dei banchi che ricordano un cimitero di navi abbandonate. I magrebini le smantellano nell'arco di un'ora. La pulizia post-mercato è un capolavoro di razionalità e organizzazione nordica. Autocisterne, ruspe e autocarri muniti di gru per raccogliere le pile di rifiuti tirano al lustro la piazza in men che non si dica. Se si è fortunati, però, durante queste grandi manovre, può capitare di imbattersi in uno spettacolo surreale. Una folata di vento che solleva cassette, buste e fogli di giornale e li fa turbinare in aria fin sopra i tetti, riempiendo il cielo di un carnevale di rifiuti, in un'atmosfera onirica da film felliniano. Alle 4, sotto gli occhi dei pusher appollaiati sulle transenne delle fermate dei tram, comincia la vendita di pomodori e meloni all'ingrosso, a quanto pare uniche merci autorizzate alla vendita durante i pomeriggi feriali, se si escludono kunafa, baklava e altre delizie arabeggianti vendute sotto la tettoia del mercato coperto nel solo mese di Ramadan. Questa routine quieta procede fino alle 7, quando cessano tutte le trattative legali. Ci sono difatti altri personaggi che devono sfangare la loro giornata. I taxisti neri, soprannominati Baku Baku, riuniti in un piccolo crocchio davanti al Pala Fuxas. Gli spacciatori che col calare della notte diventano sempre più baldanzosi. I parcheggiatori abusivi, geniali nel riscuotere l'obolo dai torinesi bene, diretti ai bistrò del quadrilatero, nonostante la piazza sia quasi completamente sgombra. A notte fonda se ne vanno tutti. Passa ogni tanto qualche tossico in vena di parlare, gli allungo un paio di spiccioli mentre mi racconta la storia della sua vita. Qualche carabiniere si ferma a fare discorsi da carabiniere. Il tempo rallenta, scandito dallo sferagliare di assi e cavalletti dei magrebini che ricominciano a montare il mercato, aspettando l'alba. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierpaolo Totti, Casba d'Italia, dal numero 37 ottobre 2008 della rivista Giudizio Universale.